Grazie Monica, fantastico. Buonasera, tanti auguri, sono così contento. Mentre avevamo il nostro momento di adorazione, ho sentito che forse per la prima volta questa sera hai aperto il tuo cuore senza paura e senza vergogna davanti a Dio. E io lo so che tu lo sai, che lo sto dicendo a te. E puoi farlo sempre. Possiamo sempre aprire il nostro cuore senza vergogna davanti a Dio. Davanti a Dio. Io sono onorato questa sera ed emozionato. Non mi emoziono facilmente, però questa sera stiamo per aprire la parola di Dio. E stiamo per permettere a questa parola di parlare a tutte le donne, a tutte le ragazze, di qualsiasi fascia d'età e di qualsiasi indicazione c'è sulla tua carta d'identità per il tuo stato civile. Perché quando andremo a parlare di mamma questa sera, il desiderio di Dio è che tu possa sentirti inclusa e non esclusa. Perché quello che Dio ha messo dentro di te è un cuore di mamma. E questo vale per tutte le donne, questo vale per tutte le persone che sono intorno a noi, per tutte le donne che sono qui questa sera, e insieme lo andremo a scoprire. Dio ti ha creato con il cuore di mamma. Al di là della stagione dove tu ti trovi in questo momento specifico della tua vita, che tu abbia avuto modo di partorire dei figli o che tu non abbia ancora avuto modo di partorire dei figli, Dio ti ha creato con il cuore di mamma. E io lo so che tu lo sai, perché il tuo cuore di mamma si vede in tutte le cose che fai, in come tu le fai, nella cura che metti a quello che tu fai. E che tu possa avere avuto una mamma che ha saputo dimostrarti il suo amore, o che tu possa avere avuto una mamma che non è stata capace di dimostrarti il suo amore, Dio ti ha creato con un cuore di mamma. E i valori che questa sera andremo a vedere insieme dalla parola di Dio parlano di te e di chi tu sei. E tu puoi avere 9 mesi come mia figlia, o tu puoi avere 100 anni, e nessuno di noi in mezzo a noi questa sera ha 100 anni, ma il cuore di mamma che Dio ha messo dentro di te è dentro di te. Mamma mia, mamma mia, capite? Cioè io non sono degno di poter parlare di tutto questo. Come faccio a parlare di tutto questo che vi ho appena detto? E mi sento così onorato di essere io a doverlo fare. Il cuore di mamma. Il cuore di mamma è così fragile, ma è così forte. È vero. Il cuore di mamma è così delicato, determinato. Lo vedo in mia moglie. Lo vedo in mia figlia che ha solo 9 mesi. È così delicata. Poi mia moglie le mette tutti questi fiocchettini con questi frontierini che la fanno essere ancora più bella. Ma è così determinata. Lei sa quello che vuole. E se vuole prendere il telecomando, lei lo prenderà. E tu gli potrai dire no, ma lei lo prenderà. È così fragile che se muovo le buste della spesa si spaventa e piange, vuole abbracciarsi e stringersi, eppure è così forte. È così forte che quando dico non si tocca il cellulare di papà, lei fa così. Ah. Non si tocca. Ah. e poi si avvicina, io dico non si tocca, ah! E si ferma. Vedete come il cuore di una mamma risiede nell'intimo di ogni donna. E questo mi emoziona. Mi emoziona. Perché io ho cercato, mi sono impegnato, ho detto voglio capire l'amore che Dio prova per te. E per il cuore di mamma che ha messo in te. E io mi sono reso conto che non riesco a poterlo spiegare completamente nel modo in cui Dio lo vive e lo prova verso di te. Ma lo faremo lo stesso. Il primo valore che c'è nel cuore di una mamma è la sua bellezza. La sua bellezza. La bellezza di una mamma non si esprime in quello che la superficie mostra. La bellezza di una mamma risiede in quello che la sua anima esprime. Sì? Non è un vestito scollato che mostra la tua bellezza. Non è una gonna corta che mostra la tua bellezza. La tua bellezza non è in una taglia 40. C'è l'ossessione delle taglie per le mamme, per le donne, soprattutto le mamme. C'è l'ossessione per la taglia. Perché sono ferme a quando avevano 15 anni, che avevano taglia 40. Non ne hai più 15. Non ci potrai più entrare. La tua bellezza non è in un numero che tu puoi contare su di una bilancia, che ogni mattina vai e ti pesi. E mo fanno pure quelle bilance che hanno i grammi, che sai pure se hai peso, se hai preso 100 grammi. La tua bellezza non è lì. La tua bellezza è conservata nel tuo sguardo. Donne, mamme, ragazze, la vostra bellezza è conservata nel vostro sguardo, perché i vostri occhi parlano di quello che c'è nel vostro cuore. Amen. Io so che tu hai bisogno di sentirtelo dire stasera, ecco perché Gesù l'ha messo nel mio cuore. E l'apostolo Pietro lo dice così nella sua lettera che scrive al capitolo 3, dal verso 3, e lui dice così: non preoccupatevi di essere belle al di fuori, con pettinature raffinate, gioielli d'oro e vestiti eleganti. Cercate invece la bellezza nascosta e durevole, quella del cuore. Cercate di avere un animo buono e sereno, queste sono cose preziose di fronte a Dio. È il peccato che ha deformato e ha confuso e ha portato confusione nella tua vita, facendoti credere che la bellezza è una ricerca di una perfezione apparente che nessuno potrà mai raggiungere. Tanto è vero che ricorriamo alla chirurgia plastica. Giusto? E io voglio dire una cosa, voglio essere onesto con voi. Lo sguardo di noi maschietti, che avrebbe dovuto custodire quella bellezza incorruttibile, quella purezza che risiede nel nostro cuore, che risiede nel vostro cuore, non vi ha aiutato e non ha custodito questo. E lo sappiamo. Ma io voglio dirti una cosa stasera: non permettere a niente e nessuno di avere la voce più grossa della voce di Dio nella tua vita. Perché tu sei stata creata in modo stupendo. Lo abbiamo cantato. Tu sei stata creata in modo stupendo. E questa non è una pezza a colori. Questa è la verità di Dio. Questa è la verità di Dio per te. E questa verità deve riposare dentro di te, deve scendere dentro di te e deve riposare. E questo significa, questo non significa che tu non debba prenderti cura di te stesso. Questo non significa che tu non debba prenderti cura del tuo corpo. Il nostro corpo ce l'ha donato Dio. E noi dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. Il nostro corpo deve essere in forma. Perché lo sappiamo tutti. Se il nostro corpo non sta bene, noi non saremo in grado di adempiere a tutte quelle opere buone che Dio ha precedentemente preparate per noi affinché le potessimo compiere. Ma la tua bellezza non è qualcosa che si può misurare con una taglia di pantaloni. La tua bellezza non è qualcosa che si può contare sull'ago di una bilancia. La tua bellezza è qualcosa che si può scoprire guardandoti negli occhi e vedendo quello che c'è nel tuo cuore. Quando penso alla bellezza di una mamma, penso alla bellezza di mia moglie. Sapete cosa mi ha fatto innamorare di lei? I suoi occhi. I suoi occhi esprimevano tutta la fragilità che lei aveva nel suo cuore e il suo bisogno di essere protetta. E sapete cosa succede? Che questa è una scoperta. Ogni giorno c'è una scoperta nuova. Perché quello che risiede nel profondo del tuo cuore e del cuore di ogni donna è così segreto che ogni giorno vivendolo tu lo puoi scoprire. E ogni giorno lei diventa più bella. E io ho una foto che chiedo alla regia di inviare, che mostra il massimo, l'apice della sua bellezza. Questa foto è la dimostrazione che la taglia 40 non ti fa essere bella. Questa foto è la dimostrazione che quello che la tua bilancia dice non ti fa essere bella. E mia moglie non è mai stata così bella come in questa foto. E io non vedo l'ora di farne tante altre per tutte le volte che sarà bella. Amore mio, ti amo, so che sarai nella nursery a dare da mangiare a nostra figlia e a prenderti cura di lei. È così. È così. La tua bellezza è qualcosa che va scoperta. Secondo valore che troviamo nella parola di Dio questa sera e che riguarda il cuore di una mamma è la sua forza. Una mamma è forte. La forza di una mamma e di una donna sta nel suo mettere da parte se stessa e i propri interessi per mettere gli altri al primo posto. Tu lo sai, che la cura per la tua famiglia è più importante del tuo comfort. Tu lo sai che la cura per la tua famiglia diventa il tuo primo motivo di gioia e soddisfazione. Tu lo sai. Quando io ero giovane e vivevo ancora a casa dei miei genitori ed ero in Australia e facevo appuntamenti Skype con loro, voi dovete sapere che mia madre non è che piangeva perché io le mancavo. Mia madre piangeva perché non sapeva come dovevo fare le lavatrici, non sapeva come dovevo cucinare, e chi ti lava, e chi ti cucina, e chi ti pulisce. E io ho detto, mamma, ma scusa, piangi perché ti manco io, ma non perché ti manca fare tutte queste cose per me. Cioè, voglio dire, anche io sono una persona, anche io ho delle emozioni e dei sentimenti. Ma la cura, la tua forza, il tuo mettere da parte te stessa per mettere gli altri al primo posto, è qualcosa che noi maschietti ci impegniamo, no? Un po' a provare ad emulare questa forza, ma non ce la facciamo. Diciamo la verità, non riusciamo a competere con la forza di una mamma e di una donna, e non riusciremo mai a raggiungerla. La forza che una mamma ha di perdonare, sempre. La mamma perdona sempre, perché la famiglia è la cosa più importante. La forza che una mamma ha di guardare al bene e non al male. Quando tu parli con una mamma, lei pensa sempre bene. Lei pensa sempre bene. La forza di una mamma di non arrendersi mai. La mamma non si arrende mai. E diciamo la verità. Se il nostro matrimonio funziona, nella maggior parte dei casi è perché la mamma non si arrende mai. È vero? Diciamo la verità. Siamo onesti. Sapete, il re Lemuel in Proverbi, come conclude i Proverbi, lo dice così, al capitolo 31, dal verso 11, parlando della mamma, della moglie, della donna, dice questo: suo marito ha piena fiducia in lei e non sarà mai un miserabile. Per tutta la vita gli dà felicità e mai dispiaceri. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le sue mani. Fa venire da lontano le sue provviste, simile ad una nave mercantile. Si alza prima dell'alba, prepara il cibo alla sua famiglia e ordina alle sue serve quello che devono fare. Investe il denaro, frutto del suo lavoro, comprando un terreno coltivato a vigna. C'era la parità dei sessi, già dai Proverbi. Lavora con grande energia. Le sue braccia non sono mai stanche. Controlla che i suoi affari vadano bene e la sua lucerna resta accesa tutta la notte. Mette mano alla lana da filare e gira il fuso con le sue dita. È generosa con i poveri e aiuta i bisognosi. La forza di una mamma è qualcosa di nobile. È qualcosa di nobile. È unica. Come diciamo noi, di mamma ce n'è una sola. La forza di una donna e di una mamma non si può eguagliare, non si può copiare, ma la forza di una mamma e di una donna si può solo ammirare. E io voglio incoraggiare noi maschietti ad ammirarla, noi figli ad ammirarla, a onorarla, a riconoscerla e poi di nuovo a riconoscerla, ad ammirarla, a onorarla. Sapete, quando penso alla forza di una mamma, penso a mamma Gianna. Forse voi non sapete chi è mamma Gianna. Mamma Gianna è la mamma di Simona. C'è una foto. Questa qui è mia moglie, che fa le stesse facce di mia figlia e muove le mani come mia figlia. Mamma Gianna è forte, ha una forza che voi non avete idea. Cioè, tu puoi chiederle qualsiasi cosa, lei la fa. E che ci vuole? Non ci vuole niente. Due minuti e ti intavolo un cenone di Capodanno. Due minuti e abbiamo comprato questo, l'abbiamo provato, l'abbiamo lavato, l'abbiamo stirato, l'abbiamo steso, l'abbiamo rientrato, l'abbiamo provato e l'abbiamo cambiato. E io sono così grato a mamma Gianna, perché anche mia mamma, sapete, quando uno si sposa si dice che i due diverranno una sola carne. Quindi se lei è madre di mia moglie, è madre mia. Quindi ho acquisito un'altra mamma. E io sono così grato, grazie mamma Gianna, per tutto quello che tu hai insegnato a tua figlia, per la forza che gli hai dimostrato sempre nel perdonare, nel guardare al bene. Io sono tutte cose che rivedo in lei e che sono una benedizione per la mia vita, grazie, ti voglio bene. La bellezza di una donna e di una mamma è qualcosa da scoprire. La forza di una donna e di una mamma è qualcosa da ammirare. Terzo valore che vediamo insieme questa sera, un valore che risiede nel cuore di ogni mamma, nel cuore di mamma che è dentro di te, è il suo coraggio. Il coraggio di una mamma e di una donna è un mistero. È un mistero. È così radicato questo coraggio dentro di te che secondo me neanche tu riesci veramente a spiegarlo fino in fondo. È vero? È normale per te. Sei la mamma. Cioè, è normale. Non è scienza, non è uno studio, è quello che tu hai dentro. Il coraggio di amare sempre. La mamma ha il coraggio di amare sempre. Sempre. E comunque è a qualsiasi costo. È vero? Tu le puoi dire, tu le puoi fare, le puoi combinare di tutti i colori. Ma la mamma ha il coraggio di amarti sempre. La mamma ha il coraggio di andare avanti sempre senza mai tirarsi indietro. Una mamma va sempre avanti. Non si guarda mai indietro, non si ferma mai, va sempre avanti. Ha quel coraggio di non tirarsi indietro davanti a nulla e davanti a niente. Il coraggio di vedere crescere dentro di te una vita. Il coraggio di prendere responsabilità su quella vita che sta crescendo dentro di te. Il coraggio di affrontare il travaglio e il parto. Il coraggio di affrontare il dolore e superarlo. Il coraggio di lasciare andare e vedere crescere quella vita separata da te. Per fare la mamma ci vuole coraggio. Io me ne sono reso conto. Per fare la mamma ci vuole coraggio. E io posso dire una cosa, noi maschietti siamo così grati a Dio perché Lui ha messo questo valore dentro di voi, femminucce. Perché questo coraggio è accessibile ad ogni donna. Questo coraggio è accessibile ad ogni donna. Perché ogni donna ha il potenziale in sé per fare la mamma. E questa non è una pezza a colori. A me non piacciono le pezze a colori. A me piace dire la verità. Questa è la verità di Dio. E sai perché? Perché mamma non si diventa. Mamma si nasce, perché Dio ti ha messo un cuore di mamma. Mamma non lo sei quando inizia a vedere il pancione che cresce. Mamma lo sei perché lo sai dentro di te. Al di là di quello che stai vivendo, al di là della situazione che stai affrontando, mamma sei dentro di te. E sapete come lo mette l'aspetto del coraggio il re Lemuel in Proverbi 31? Lo leggiamo insieme dal verso 21. Dice così: quando nevica non ha preoccupazioni, perché tutti i suoi familiari hanno vestiti pesanti, si fa coperte per i letti e splendidi vestiti di lino rosso porpora. È forte, gode la stima di tutti e non ha paura dell'avvenire. Parla sempre con sapienza, e ci vuole coraggio, e io lo so che a volte lo perdi, mamma. Acquistalo. Parla sempre con sapienza e dà consigli pieni di bontà. Non è mai pigra né indolente, si preoccupa dell'andamento della sua casa e i suoi figli ne sono orgogliosi e suo marito ne fa l'elogio. Sapete come nella traduzione inglese il verso 25 viene tradotto? Il verso 25 in inglese, l'ho tradotto io in italiano, dice così: lei è rivestita con forza e dignità e sorride senza paura del futuro. Lei è rivestita con forza e dignità e sorride senza paura del futuro. Il coraggio di una mamma non si può comprendere. Non lo possiamo comprendere. Il coraggio di una mamma non si può quantificare. Il coraggio di una mamma e di una donna si può solo sostenere. E incoraggiare di nuovo, e sorreggere, e sostenere. Ed è questo quello che noi maschietti dobbiamo fare, giusto? Incoraggiare e sostenere il coraggio che una mamma ha. Quando penso al coraggio di una mamma, penso alla mia mamma. E c'è una foto. Sapete, la mia mamma, quando aveva 19 anni, ha avuto il coraggio di scegliere che io sarei dovuto nascere e che tutto quello che la sua vita aveva preparato doveva fermarsi, perché sarei arrivato io. E per fare questo, quando tu hai 19 anni e hai tante cose davanti a te e tanti obiettivi da dover raggiungere, ci vuole coraggio. Io sono così grato per il coraggio che la mia mamma ha. E vi dirò di più: quando nessuno della nostra famiglia era interessato a Dio e sarebbe stato in questo posto con te, lei non ha mai smesso, ha avuto il coraggio di credere che un giorno saremmo stati qui, e il suo coraggio è stato premiato, perché noi siamo tutti qui oggi. Il coraggio di una mamma si può solo sostenere. Bellezza, forza, coraggio. Sapete come Lemuel inizia il poema che dedica alla donna virtuosa, alla moglie, alla mamma? Al verso 10 il re Lemuel dice così: una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il tuo pregio sorpassa di molto quello delle perle. La tua bellezza, la tua forza, il tuo coraggio sorpassa di molto il valore di qualsiasi altra cosa. E sapete come conclude il suo poema dedicato a te? Nel verso 29 cita l'elogio che il marito fa a sua moglie. E lui dice così: molte donne sono state straordinarie, ma nessuna è come te. Molte donne sono straordinarie, ma nessuna è come te. Girati alla persona accanto a te, di molte donne, non alla persona, alla donna accanto a te, e di molte donne sono straordinarie, se lo lasciamo, ma nessuna è come te. Invito la band anche a prepararsi. Nel mio pregare per te questa sera, io ho fatto questa preghiera e ho detto: Signore Gesù, io prego che ogni donna di qualsiasi fascia d'età che abbia avuto la grazia di poter fare la madre ora che non ha ancora avuto la grazia di poter fare la madre, ma tu sai e tu conosci, possa tornare a casa questa sera trasformata, possa tornare a casa diversa da come è entrata. E io vorrei pregare, vorrei che pregassimo insieme, vorrei che da seduti inchinassimo il nostro capo, soprattutto noi maschietti, iniziassimo a pregare, chiudendo i nostri occhi, per le donne, per le mamme che sono nella nostra vita, perché forse Gesù vuole toccare il loro cuore questa sera. E la tua preghiera ha valore. E ora mi rivolgo a tutte quelle ragazze, a quelle donne, a quelle mamme che vogliono restaurare l'immagine esatta della bellezza che Dio ha messo in loro. Non lo so cosa è successo nella tua vita, ma Dio lo sa. E tu sei bellissima. E io voglio invitare ogni donna, ogni mamma, ogni ragazza che ha bisogno di restaurare quella bellezza che Dio ha messo in lei, di alzarsi in piedi, perché noi vogliamo pregare questa sera. Noi vogliamo riconoscere quella bellezza che Dio ha messo in te, e tu hai bisogno di riconoscerla. Tu hai bisogno di essere coraggiosa e di alzarti e dire: io ho bisogno che tu, Signore Gesù, mi dai rivelazione della bellezza che hai messo in me. Grazie. Non avere vergogna, non avere paura. La bellezza è qualcosa di così importante. E se tu non ci credi, gli altri non potranno crederci. Ma Dio ci crede in te. E ora voglio invitare tutte quelle donne, quelle ragazze, quelle mamme che hanno bisogno di rinforzare le proprie mani, perché sono stanche. È troppo. E hanno detto: basta, ora basta, io non ce la faccio più, mollo. Gesù lo sa, e Gesù sa che tu non mollerai, perché non lo hai mai fatto e continuerai a non farlo, e Lui vuole sostenerti, Lui vuole darti quella forza, Lui vuole sorreggere le tue braccia che vacillano. E Lui vuole rompere ogni cosa che vuole buttarti giù. E lo vuole fare questa sera per fare una nuova pagina attraverso di te. E ora voglio invitare tutte quelle mamme che sanno che hanno perso il coraggio. Tutte quelle donne scoraggiate. Tutte quelle donne che non hanno più il coraggio o pensano di non avere più il coraggio di poter andare avanti e perdonare e amare e continuare. Il Signore vuole incoraggiarti, il Signore vuole sostenerti, Dio conosce il grido del tuo cuore. Signore Gesù, tu conosci ognuna che è qui questa sera, tu sai il peso, tu conosci la circostanza, tu conosci forse il senso di inadeguatezza. Signore Gesù, che tu possa restaurare la tua bellezza, che noi possiamo riceverla, che ogni mamma, che ogni donna, che ogni ragazza possa riceverla questa sera. Grazie Gesù. Ringrazia il tuo Dio perché Lui ti ha creato in maniera stupenda. Deve essere la tua confessione delle tue labbra, di come la tua bocca si apre per parlare di te e di chi tu sei e della tua identità. Signore Gesù, che tu possa rinforzare dove il peso è troppo grande. Io prego che ogni mamma, che ogni donna, che ogni ragazza possa farlo rotolare ai piedi della tua croce, perché questo peso non è tuo, non appartiene a te, ma Gesù l'ha preso su di sé. E in questo momento, Signore Gesù, vogliamo rotolarlo ai piedi della tua croce e vogliamo sentirci leggeri, che ogni donna, che ogni mamma, che ogni ragazza possa sentirsi leggera, riposata, Signore Gesù. E dove tu non ce la fai più, dove il tuo coraggio è finito, questa sera Gesù ha il suo coraggio. Spirito Santo, che tu possa fare il pieno, che tu possa fare il pieno di un coraggio che non viene da noi, di un coraggio che non viene da loro, di un coraggio che non è dato dalle situazioni e dalle circostanze che vanno come abbiamo pensato, ma tu Spirito Santo, che possa darci e che possa dare il coraggio che viene da te, il coraggio che guarda in faccia alle difficoltà e confessa la tua verità, il coraggio che guarda in faccia alle cose impossibili e le chiama a diventare possibili. Questo confesso per le tue figlie questa sera. Nel tuo nome lo preghiamo, Signore Gesù. Amen. Amen. Alziamoci in piedi. Voglio pregare un'altra volta. Il Signore l'ha messo nel mio cuore e io voglio farlo. Ogni donna ha in sé il cuore di una mamma, ma non ogni donna riesce ad avere la grazia di poterla fare. E io questa sera voglio pregare per tutte quelle donne che stanno cercando quella grazia che Dio vuole dare loro per fare le mamme e non ci sono ancora riuscite. Ma io non voglio imbarazzare nessuno, quindi vorrei che tutti quanti chiudessimo i nostri occhi, e se tu ti senti a tuo agio, che sia maschio, che sia donna, che possa avere figli, che possa non avere figli, io ti incoraggio ad alzare le tue mani, se ti senti a tuo agio, al cielo, in segno di arresa. Perché al di là di quello che tu vivi, per Dio è importante anche quello che gli altri vivono. E io vorrei che noi potessimo alzare le nostre mani al cielo se ci sentiamo a nostro agio nel farlo. E vogliamo confessare che Gesù è capace di poter aprire ogni grembo che non sia ancora aperto. Nel tuo nome, Gesù, noi dichiariamo che il tuo regno venga, che tu possa dare la grazia, Signore Gesù, ad ogni donna, ad ogni coppia, ad ogni matrimonio che ha desiderio di poter essere genitore, padre, madre, che tu possa dare, Spirito Santo, la tua grazia per farlo. Noi vogliamo arrenderci a te questa sera. E vogliamo riconoscerti sovrano. E vogliamo confessare, al di là di quello che i nostri occhi hanno visto fino ad oggi, che tu farai qualcosa di nuovo. che tu darai grazia a chi ha il desiderio di poter avere un figlio, di poterlo ricevere nel tuo nome, Signore Gesù, che tu possa liberarci, che tu possa guarirci, che tu possa renderci capaci di poterlo vivere. Grazie Gesù, perché tu conosci e stai guardando il cuore di ognuno, e io prego che sia fatto come la tua volontà. Prego che a ogni donna e ogni ragazza sia fatto come la tua volontà, Signore Gesù, così come tu l'hai pensata nel cielo, qui su questa terra, nella loro vita, nella loro casa, nella loro famiglia, perché tu sei potente, Signore Gesù. Nel tuo nome lo confessiamo e lo dichiariamo. Amen. Amen. Confessiamo le parole di questo canto. Continuiamo a dire e a dirgli che lo amiamo, perché lui è capace di andare al di là di quello che tu pensi. Sì, confessiamo queste parole.